get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Macchine lesbiche desideranti. Le lesbiche si vestono di colori cupi o acidi. Le lesbiche idolatrano la propria automobile, anche la moto, nei casi peggiori il camion. Le lesbiche fumano. Le lesbiche bevono. Le lesbiche non fanno una vita sana. Le lesbiche vivono di notte. Le lesbiche vivono al chiuso di discoteche, di circoli politici, nei peggiori casi delle loro case. Le lesbiche vivono di parole spesso elettroniche. Le lesbiche utilizzano giocattoli sessuali. Le lesbiche si ornano con piercing e tatuaggi. Le lesbiche si tagliano i capelli. Le lesbiche si vestono. Le lesbiche utilizzano freneticamente telefonini, fax e computer. Le lesbiche praticano il sesso sicuro. O è quanto sperano le linee lesbiche. Le lesbiche amano intervenire sull'ambiente. Dal bricolage alla politica. Le lesbiche abitano le città del loro tempo. Le lesbiche sovvertono le leggi di natura. Non dimostrano la loro età. Si vestono da ragazzine. Raramente si riproducono e quando lo fanno è spesso con mezzi non ortodossi. Vivono in formazioni affettive e sociali irregolari. Le lesbiche semplicemente con la loro presenza, che lo vogliano o meno, modificano la realtà. Le lesbiche sono creature artificiali, non previste dai piani. Le lesbiche nascono, figlie di loro stesse, nelle metropoli della modernità. La natura non è la loro madre. Il pericolo della natura. La natura è maligna, per lei vince il più forte, gli altri soccombano pure. Se ci collochiamo entro il genere femminile, ci richiede di riprodurci e basta. Ogni concezione politica e culturale totalitaria esalta la natura, la vita semplice, i mulini bianchi. Non gli sfugge il suo carattere essenzialmente reazionario. La natura è immobile, indifferente. Se una cosa si dice naturale, si intende che non può più cambiare, che deve essere eternamente uguale a se stessa. Ci dovrebbe attrarre perché è femmina, per via della madre terra, contro la cultura come costruzione maschile, contro la legge del padre? Non vorremmo ancora, come in un certo femminismo, vedere schierati da una parte i fiori, le farfalle, gli alberi, i cereali, i micini e i cagnolini, la foca e il panda, le donne, i bambini e tutte le cose buone e belle, e dall'altra la città, le fabbriche, le macchine, le guerre, lo stress della vita moderna, i libri, i computer, i maschi fallocratici e tutte le cose brutte e cattive. Ma avvertiamo ancora in giro queste semplificazioni e ci chiediamo: cosa crede di guadagnare la lesbica quando si richiama alla natura? Che sia per giustificare la sua stessa esistenza, il suo comportamento sessuale, le sue scelte di vita? Certo, l'uomo della strada si rassicura se ci pensa previste da un piano divino, o naturale, o da entrambi. Ma noi vogliamo tranquillizzarlo o fare sì che ci pensi come agenti di rottura e di mutamento dell'ordine? Lemonade, don't be mad, cause I got it made. Diva hating, waiting snake in the grass. Look me up and down when I pass. Just keep the ass vibing with your girlfriend. Jealous of my dividends and my bends and my ends. Like no other, but I smooth like cream. I keep it milky when I move on the scene. Got you fiending, all locked down. Can't you tell? Never fail. Black queens doing it well. We be the crew that you wanna step to. Sisters with an attitude. Now how my mic sound? My mic sound nice. Check one, check two. Everybody make way. Party people come and throw your hands up. Put them up. Bam. Hold steady. Are you ready? My mic sound nice. Check one, check two. Everybody make way. Party people come and throw your hands up. Put them up. Bam. Hold steady. Are you ready? Hot track, spin scratch the hot wax. So I can grab the microphone and climax. Bars they lean the cream, keep stacking. Dr. Seuss cracking the beats, no sex. So move with the groove, make your knees weaker. Salt and pepper coming through your speaker. Hot, blazing, so amazing. 150 proof, raising the roof. Who got the juice now? Yeah, papa. I'ma break the rule, something tougher. Showstopper, like Ricky Crocker. you know how we do. Stay on point like a needle. Who are you to judge like Edo? Recognize for Pepito. My mic sound nice. Check one, check two. Everybody make way. Party people come and throw your hands up. Put them up, bam, hold steady. Are you ready? My mic sound nice. Check one, check two. Everybody make way. Party people come and throw your hands up. Put them up, bam, hold steady. Are you ready? I'm about to make the whole world bounce. Make you freaking till you drippin'. Salt and pepper got me in the VI sippin'. On the dance floor, non-stop. How we movin' it? Game so tight, lubrication couldn't loosen it. Come on, kill the ball. Y'all know. Check out your glow. Who matchin' my flow? Shake what your mama created until it hurts ya. Daddy came to freak you down and work ya. E to the E to the P to the A. Lay my game down precise. I get the display. Many styles for years I've been here. Iced out, sex appeal. I put your lights out, pull your mics out. We rock the party. Freak your body, no need for a shawty. I'ma make you sweat all night, hold time. All heads turn when I snatch the mic. Send the party into orbit. Cop and drop tops, girls, I can't afford it. Ain't nothing. Party over here, what you doing on the other side? We came here to get live. Take a ride, put the S in the P. Hey, Pep MC, shine every time just like the Lexi. You wanna test me? Don't floss. We got the flow that'll break you off. Decent, leave your life like the precinct. How we get down? Worldwide, everybody know about the sound. Let the pound in your system. One time, all up in your mind. How we shine? Can you want it? My mic sound nice. Check one, check two. Everybody make way. Party people come and throw your hands up. Put them up. Bam, hold steady. Are you ready? My mic sound nice. Check one, check two. Everybody make way. Party people come and throw your hands up. Put them up. Bam, hold steady. Are you ready? My mic sound nice. Check one, check two. Everybody make way. Party people come and throw your hands up. Put them up. Bam, hold steady. Quello che vi abbiamo letto prima dell'interruzione musicale è tratto dal manifesto di Lesbiche contro Natura, presentato alla terza settimana lesbica, svoltasi a Bologna dal 3 al 7 giugno. Abbiamo scelto di aprire la trasmissione di oggi, dedicata in gran parte al resoconto di queste 5 giornate, con le parole di Monica, Moira e Olivia, perché, a nostro parere, nel loro opuscolo Lesbiche contro Natura, Energia o Silicio, dalla New Age al Cyberpunk, Lesbiche tra Natura e Costruzione, riescono a darci la testimonianza di una delle tante diversità che compongono il variegato universo lesbico attuale. Altro pregio del loro manifesto è l'essere riuscite a coniugare elementi teorici, provocazione politica e divertimento. E proprio di questo si sente la mancanza nei nostri luoghi. Di riuscire a confrontarsi senza pesantezza, dove i contenuti differenti siano esportati senza barriere e prevenzioni e dove, dalla provocazione politica, scaturisca dialogo e non il solo conflitto. Queste 5 giornate a Villa Guastavillani hanno toccato una media di 300 donne e, nella serata di sabato, che di fatto ne segnava la conclusione, alla festa hanno partecipato circa 1000 lesbiche. Certo, questa terza settimana portava il segno delle grandi difficoltà vissute dal forum per la sua realizzazione e ce ne siamo rese conto nel suo svolgersi. Comunque è stato un evento importante che, come stavo detto nell'assemblea conclusiva, di fatto chiude il percorso iniziato alla seconda, quella del 96, che aveva fatto sperare a tante un futuro insieme nelle differenze. C'è per le lesbiche del forum la consapevolezza che l'intento non è andato a buon fine, ma rimane il desiderio di molte a non ripetere gli errori dovuti al poco confronto delle modalità e delle pratiche politiche. Quindi, per quelle che vorranno, si apre ora il momento del bilancio, delle valutazioni politiche, dell'esperienza di questi 2 anni, convegno del 97 e terza settimana, per decidere insieme se il percorso da qui al 2000 potrà vederci insieme. Everybody, if you can hear me sing, you can sit there and listen, or you can do that boogie thing. Feels good to move your body. You can dance in great delight, and you know to my promise, go for it tonight, tomorrow ain't promise. Tomorrow ain't promise. No, tomorrow ain't promise. go for it tonight. Siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane all'interno dello spazio femminista autogestito su Radio Onda Rossa 87900. Vi ricordiamo che potete telefonarci al 491750, c'è sempre una di noi pronta a rispondervi, oppure potete contattarci ogni lunedì dalle 20:30 in poi al Centro Femminista Separatista, via San Francesco di Sales 1A, telefono 6864201. Prima dello stacco musicale accennavamo al percorso politico da costruire fra i vari settori del movimento lesbico in vista del 2000. Un primo momento di confronto è stato fatto all'interno della tavola rotonda sulle pratiche e gli obiettivi politici dei movimenti lesbici europei, svoltosi venerdì 5 giugno e ripreso nella giornata di sabato dal coordinamento fra le lesbiche europee per Roma 2000 World Pride. A Villa Guastavillani erano presenti lesbiche provenienti da Scozia, Gran Bretagna, Irlanda, Jugoslavia, Francia, Germania, Spagna e Belgio. Io brevemente mi fermo perché le nostre ospiti sono molte e vorrei soprattutto lasciare la parola a loro. Mi limiterò a presentarvele, cominciando a destra, no, Barbara Bollman, dalla Debra, se non conosco il cognome, e Barbara Bollman dalla Francia. Poi abbiamo Claudia, che è la traduttrice, e poi dall'Irlanda Sheila Quinn fa parte di due gruppi, Lesbian Attention Awareness and Lesbian Organization Together, se vorrà ci dirà meglio lei. Poi abbiamo dalla Germania Verena, di una rivista lesbica, Irsin, scusa se non la traduco bene. Poi ho Brigitte, la nostra traduttrice del tedesco. E poi abbiamo Slavka e Beata da Cracovia, dalla Polonia, del Women's Center di Cracovia, Valeria, io, e poi Leva, che già conoscete, che viene dalla Serbia, e comunque per chi non la conosce si presenterà dopo meglio lei. E poi abbiamo Chris Corin, Glasgow Lesbian Line, della Scozia, e Niji, la nostra traduttrice, e infine Miraj Malhotra da Londra. Noi volevamo innanzitutto rivolgere un invito alle nostre ospiti, che intanto ringraziamo molto caldamente di essere venute. Ringraziamo altamente per il loro interesse, perché dobbiamo anche ricordarlo, visto che la politica costa, che tutte si sono autofinanziate per venire qui, visto che non sono state in grado di parlare qui. Noi volevamo invitarle a parlarci innanzitutto della situazione delle lesbiche nei loro paesi, un po' per conoscerci di più, per capire com'è altrove, e anche della situazione dei movimenti lesbici di questi paesi, nell'ottica di guardare soprattutto agli obiettivi di questi movimenti, alle pratiche, alle modalità di collegamento, alle loro azioni. Dalla registrazione vi sarete resi conto del poco agio con cui sono avvenuti questi momenti assembleari con le lesbiche straniere. Purtroppo la traduzione in tempo reale porta via molto tempo, mettendo a dura prova l'attenzione delle partecipanti. Vorremmo però fare un grande ringraziamento alle amiche che hanno reso possibile, con il loro lavoro di traduzione, in assoluto volontariato, lo svolgersi delle iniziative con le straniere. Come molte di voi sapranno, il World Pride del 2000 è previsto a Roma e nell'assemblea del sabato le aderenti al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli hanno proposto alle presenti di aderire e lavorare per questo evento. Dalla discussione e dal confronto che è seguito, l'idea che ha preso corpo, ma tutta da verificare e da sistematizzare, è la realizzazione della quarta settimana lesbica a Roma, in concomitanza del Giubileo. Per il momento è stato deciso di costruire un coordinamento internazionale tra le lesbiche per aprire spazio al confronto, alle proposte, alle idee di tutte coloro che vorranno dare vita all'evento. Big daddy said it's okay, holding out for love. Don't like it much, but that's the way it goes. Big talker thrills, darker sitting on the time, deciding every day who's next in line. Sick bitch, raise your head, looking for a lover. Sick of all the chills, time for another. I believe you, and I believe you. Put your head on my lap, don't you know that's where it's at? Everybody's coming, everyone but me, cause they don't give me nothing to see. Trip fit, go ahead, kiss me again, I always like it when it ends. Cause I believe you, and I believe you. Uno dei momenti più emozionanti nel corso della settimana lesbica l'abbiamo vissuto nel partecipare all'iniziativa di solidarietà a Silvia Baraldini. Dopo la proiezione di un'intervista a Silvia realizzata nel 1994, l'Assemblea ha firmato e inviato un messaggio per accelerare le pratiche della sua immediata liberazione. Eravamo tra quelle che sostenevano fosse meglio non realizzare la terza settimana senza aver ripreso e concluso il confronto nel forum, ma conti fatti, queste giornate hanno avuto degli elementi positivi sui quali fare delle riflessioni. Il primo in assoluto è che quando le lesbiche decidono di realizzare un'iniziativa, la portano avanti fino in fondo, anche a scapito della salute fisica, psichica e non meno importante per noi quella emotiva, affettiva e sessuale. Il secondo aspetto è l'avere fatto capire alle altre, che ancora non erano della nostra opinione, la necessità, se si vuole procedere insieme, di dipanare i nodi che ci differenziano. Il terzo è quello di cercare di operare dei cambiamenti nella modalità politica che prevedano la possibilità di convivenza e di scambio tra lesbiche di diverse provenienze, generazioni e pratiche. Ed ora un momento di vita vissuta. Infatti vorrei farvi partecipi della testimonianza, la mia, su come ho vissuto queste giornate. Premetto che ero andata a Villa Guastavillani con due cose ben chiare. La prima era quella di non avere aspettative, e per me questo è importantissimo, in quanto spesso divento preda di crisi di depressione politica non indifferenti, sia per me stessa che per chi mi frequenta. La seconda chiarezza era pormi, per la prima volta in quasi 30 anni di militanza, da utente. A conti fatti sono stata abbastanza male, grazie. Essere utente non mi è confacente. Il fatto poi che la maggior parte delle organizzatrici erano le prese con panini, bibite, cambio di soldi in desbinie, unica moneta corrente alla villa, assegnazioni posti letto, turni di sorveglianza e quant'altro ancora, rendeva il mio primario interesse poco appagato, in quanto il confronto e lo scambio politico era poco dinamico. Infatti, al secondo giorno, con felicità, ho potuto, complice la gognata doccia della lesbica in turno, offrirmi per darle un cambio. Ho cercato anche di farmi insegnare per il porzionamento del pranzo, ma delle balde ventenni hanno detto che bastavano loro, e questo non mi ha deluso, perché così ho avuto modo di partecipare alla presentazione del libro Mailing Desiree, Conversazioni di una comunità lesbica virtuale, iniziativa utile attuale di cui speriamo di potervene mandare la registrazione prossimamente. Bypasso sul processo al sadomaso, non certo per censura, ma perché anche su questo argomento vorremmo dedicare più tempo. Comunque vengo ai due momenti clou della serata di sabato. Dopo cena, io, che abile ballerina non sono, con grande sforzo mi sono trasferita nel salone delle feste. Già sapevo che non avrei ballato, perché le musiche che riescono a farmi agitare sono soltanto e rimangono sempre il rock, il sound, i mitici twist e perché no il cha-cha-cha. E spesso, da 8 anni a questa parte, per ballare minimo mi servono 2 gin tonic. Ma ecco, dopo appena 10 minuti mi sparano a palla gli ABBA e poi Aretha. Le mie gambe si muovono da sole e mi butto nel vortice delle danze. Piena di speranza salgo le scale, mi precipito in stanza e cambio i miei sandali a carro armato con le più comode scarpe a mocassino. Torno di corsa giù e, delusione delle delusioni, rimango a guardare inebetita le giovani e le meno costrette di me dimenarsi in strani ritmi che mi dicono poi le lesbiche di tendenza sono i funky, la techno, i pop e dum dum. Rimango sulla porta a guardare e capisco e mi sento quanto sono out. Aspetto con le altre, tipo me, che arrivino le 3, orario in cui è previsto il rito sciamano della mangolfiera. Finalmente la sciamana ci trascina al suono del bongo nel mezzo del prato, umido e ancora bagnato dalla pioggia. Benedico la dea che mi ha fatto indossare i mocassini, se no sai che reumatismi domani. Le 4 lesbiche, che impersonano i 4 elementi, sono pronte. Si dà fuoco alla palla sottostante alla mongolfiera che renderà possibile il suo volo. La sciamana ci dice di esprimere un desiderio e quando vedremo la mongolfiera salire in cielo si avvererà. Ecco che si alza in aria. Mi sguardo in alto e, mannaggia il mio materialismo, mi gioco il mio unico desiderio. Ti prego, fa che non cada e si eviti di dare fuoco a qualcosa. Ci manca pure che le lesbiche diventino incendiarie. Poi, quando il piccolo punto infuocato sparisce in cielo, al suono del tamburo, maracas e tamburello, insceniamo un corteo che passa all'interno della villa. Dal salone continuano a uscire a tutto volume note di musica techno. Chiamiamole techno, chiamiamole dun dun, bah, non so. Noi che procediamo come Hare Krishna sotto il portico e tante altre che a squarciagola intonano canzoni di concato. E con il pensiero torno al 1977. Ero sempre a Bologna, quando con le femministe facevamo i cortei sotto i portici, mentre poco più in là c'erano gli indiani metropolitani e poi gli autonomi e tante altre ancora. Ma la cosa non mi rattrista, anzi mi fa sentire l'odore e il senso di un nuovo movimento, e non mi sembra poco. E permettetemi adesso di concludere questo primo resoconto dalla 3ª settimana lesbica con una canzone che dedico a me stessa e che ballerò con immenso piacere, anche perché nessuno mi vede, nell'attesa che le lesbiche giovani mi facciano conoscere ed apprezzare le nuove tendenze musicali. E ora, per tutte le lesbiche che hanno all'interno dei loro cassetti nascosti o comunque chiusi dei propri scritti, vi informiamo che le lesbacce incolte cercano inediti per pubblicare una raccolta di fantascienza e fantasy lesbica ed un'antologia di poesia lesbica contemporanea. Chi sono le lesbacce incolte? Si chiamano così perché credono non sia necessario essere colte per produrre cultura e comunicazione, perché trovano più belle le erbacce che crescono ai margini dei giardini celebrati dal sapere, perché nei margini ci vivono ed è territorio conquistato e scelto, perché l'editoria autoprodotta è strumento e arma di libertà e visibilità. Le lesbacce hanno fatto delle pubblicazioni, tra cui Le amanti di Nicole Brossard, Le guerrigliere di Monique Wittig, e 2998-1998 Agenda Lesbica. Potete contattare le lesbacce incolte presso la casella postale 4059 presso ufficio PT Borgo Panigale 4100 Bologna, oppure all'indirizzo email barbara.masi@bo.nettuno.it. Passiamo ora invece ai collettivi donne milanesi che si trovano a via Cicco Simonetta 15 a Milano, chiaramente, e il loro programma fino alla fine dell'anno prevede ogni domenica dalle 15 alle 20 ed estate alle 16 alle 20 soffici pomeriggi saffici, momenti di incontro. Ogni terzo giovedì del mese alle ore 21 invece presentano Tutto questo è anche un film, immagini dall'omosessualità. E presentano film, video, diapositive, documentari. Poi fanno anche iniziative di studio, sport, gite teatro e hanno a disposizione delle lesbiche che lo vogliono la biblioteca e la videoteca. Torniamo invece a Bologna, dove è stato presentato nel corso della settimana lesbica il libro di prossima uscita Male in Desire, conversazioni di una comunità lesbica virtuale, edito dalla casa editrice Il Dito e la Luna di Milano. Appuntamenti. Il 18 giugno presso Arcinova Finisterre, via San Zenobi 54R Firenze, si terrà il monologo teatrale Spirali di coppia di e con Eleonora Dall'Ovo. Per informazioni telefonare al 055 47 65 57. Sempre a Firenze, il 22 e 23 giugno alle ore 20, ci sarà il Festival Internazionale di Cinema Gay e Lesbico, presso il Cinema Alfieri, via dell'Olivo. In programma alcune opere lesbiche che vi segnaliamo. Lunedì 22 giugno, Twisted Sheets di Chris Deacon, Canada 96, e Sam Prefers Cake di Aide Arnesen, USA 1997. Martedì 23 giugno, Saborami di Claudia Morgado Escamilla, Canada 1997. The Watermelon Woman di Cheryl Dani, 85. Dal 10 al 27 giugno, lo leggiamo dalla bollettina del CLI, si svolgerà a Parigi Fierté Lesbien, l'appuntamento annuale organizzato dal movimento lesbico francese. Gli eventi in programma che si snoderanno durante l'arco delle due settimane sono dal 10 al 16 giugno Cinefable, che ogni anno organizza il festival di cinema lesbico Quand les lesbiennes font du cinéma, cura la programmazione di film classici e storici all'Épée des Bois. Il 19 giugno a Studio Berthelot, concerto del gruppo tedesco Kick la Luna e di Very Good Rock and Roll Band inglesi. Il 20 giugno invece partecipazione alla manifestazione per la visibilità lesbica e dopo il corteo appuntamento alla Salva Gram per la fiera dei progetti lesbici, festival, case di vacanza, case editrici, radio, riviste, artiste, registe, scrittrici, eccetera, a cui farà seguito la festa fino all'alba, Dal 24 al 26 giugno invece al Centro Culturale dell'Ambasciata Canadese dibattiti e workshop sulla cultura francofona nei media, a cui interverranno Nicole Brossard, Marie-Jo Bonnet, Michel Cos, Nathalie Magnan, Suzette Triton, Catherine Gonnard, Daniel Charret, Nadine Laroche e José Gabriel Morisset. A Roma, martedì 23 giugno, alle ore 9.30, seminario su transessualità, orientamento sessuale e imprenditoria femminile, organizzato da CGL insieme a SLC, Ufficio dei Nuovi Diritti, sala da definire. Venerdì 26 giugno, sempre alle ore 17, presso la sala Borromini, piazza della Chiesa Nuova, si discuterà su articolo 3, le garanzie costituzionali non si toccano, si ampliano. E su questo slogan, sabato 27 giugno, si svolgerà alle ore 16 la manifestazione per il Gay Pride da Piazza della Repubblica a Piazza Farnese. Ma l'appuntamento che più ci preme comunicarvi è il Lesbo Party, organizzato dal CLI, che si terrà sabato 27 dalle 22 in poi presso il Centro Femminista Separatista, via San Francesco di Sales 1A, Roma. Proprio in questi giorni è in programmazione nelle sale cinematografiche il film di Dipa Mehta, Fire, presentato in anteprima al 6° Festival del Cinema Lesbico di Immaginaria nello scorso febbraio e di cui vi consigliamo caldamente la visione. Si tratta del terzo lungometraggio di questa regista nata in India ma residente in Canada, che dopo la proiezione di questo film ha ricevuto minacce di morte da parte di uomini che si sono sentiti attaccati nella loro mascolinità. Dal catalogo di Immaginaria vi leggiamo che il film narra la storia d'amore fra due donne in India. Lo sterile matrimonio di Radha è scosso dall'arrivo della nuova moglie del fratello di suo marito, Sita, la cui estrema apertura e modernità portano Radha a mettere in dubbio molti aspetti della sua educazione. Il film evidenzia bene lo scontro fra tradizione e modernità, fra Oriente e Occidente, spiritualità e materialismo in un'India scossa da profondi cambiamenti. Fire è stato girato in Canada, dove la regista Dipa Mehta appunto vive, e ha riscosso un enorme successo all'Indian Film Festival, dove ha ricevuto premi in vari festival in Gran Bretagna, Germania, America e Canada. Per assicurarsi una distribuzione in Gran Bretagna, la produzione ha sottolineato che il film parla di come opporsi agli uomini, mettendo in secondo piano l'amore lesbico. In Nuova Zelanda, il GAP, Rete di Gruppi Lesbiche e Gay, ha vivacemente protestato con la Croce Rossa che all'annuale ballo di beneficenza non aveva previsto la possibilità di aprire le danze con partner dello stesso sesso, dando per scontato che si preferisca ballare con il sesso opposto. La Croce Rossa ha fatto le sue scuse, promettendo di cambiare il protocollo al ballo del prossimo anno. In Australia, Jackie Griffin ha vinto la causa contro la scuola cattolica in cui insegnava, che l'aveva sollevata dall'incarico per via della sua vita apertamente lesbica. Nel lungo processo è stata sostenuta da un coordinamento studenti-insegnanti che vedevano in questa sentenza la possibilità di un cambiamento radicale nelle scuole cattoliche. Avanzate ed arretramenti nella battaglia per le unioni civili. In tre stati degli Stati Uniti, Maryland, Kentucky e Iowa, è stata approvata una legge che vieta eventuali matrimoni omosessuali. Catherine O'Hanlon, ginecologa di chiara fama di San Francisco, inclusa nel Guinness dei primati per la sua abilità chirurgica, ha querelato l'Università di Stanford che le aveva negato una promozione dopo essere stata eletta a capo della Gay and Lesbian Medical Association. Hungry woman, feed me like I want to be fed. Yeah, I'm a hungry woman, feed me like I want to be fed. Well, you can feed my body, but you really gotta feed my head. I'm hungry like a dog, like a New York City rat, a school of piranhas or a Venus flytrap. Takes a lot to satisfy me, I'll eat your whole menu. But don't you dare forget, you gotta feed my head too. I'm a hungry woman, feed me like I like to be fed.